tempo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Sono le 16 e quasi 7 minuti, tra 10 secondi a Radio 24 mi stava tremando la sedia. Ho detto: ma cosa succede? C'era Filippo che ballava in regia sulla sigla di Radio Tube o sugli Earth, Wind and Fire? Secondo me sugli Earth, Wind and Fire, ho capito. No, no, il momento di Radio Tube in diretta per 2 ore fino alle 18. Ovviamente anche con un sacco di musica. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms. Ci sono anche i miei account social, Twitter e Instagram, @MartaCagnola. Parleremo tanto di musica, parleremo tanto di televisione. Ovviamente non possiamo non tornare sul Festival di Sanremo, perché se ne è parlato tantissimo. Non si smette di parlare di questo Sanremo quest'anno. Chissà come mai, chissà perché. Ma cercheremo di capire anche questo. Però partiamo con la televisione, con una serie che è appena iniziata e che è davvero da non perdere. Questo token trasferisce 31 milioni di dollari appena il prodotto lascia il Messico. Il resto verrà trasferito quando il carico arriva a Gioia Tauro. Se non arriva, che si fa? Allora ci perdiamo tutti. Venditori e acquirenti sono collegati dagli intermediari. Gli intermediari siamo noi, non vi presentiamo nessuno. Per loro è molto importante questo carico, capito? Il Messico ci ha addestrati a essere i migliori. E lo siamo. Perché quello che facciamo è ciò che fa girare l'economia mondiale. Oh, and the saints go marching. Serie attesissima, una di quelle serie di respiro internazionale e davvero di respiro internazionale che produce Sky. L'ispirazione ancora una volta è un libro di Roberto Saviano, 000, ma questa volta questa volta l'operazione è completamente diversa. Noi cerchiamo di capire di più cosa c'è dietro questa serie di straordinaria qualità con il regista Stefano Solli. Ma buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho detto ispirato a un libro di Roberto Saviano. Come possiamo dire? Qual è l'espressione giusta? Perché il libro è il punto di partenza. Il libro di Roberto era un'inchiesta giornalistica che aveva un'anima che ho trovato molto speciale, che era quella di sostanzialmente raccontare non tanto il fenomeno del narcotraffico, ma quanto il mondo e gli effetti che questo produce in termini di contraddizione e di impatto sociale. E nello sviluppo della serie abbiamo mantenuto l'idea dell'anima, l'idea principale. Ci sono due aspetti che sono particolarmente importanti. Intanto uno, quello produttivo e realizzativo, che ha richiesto un sacco di tempo e anche un sacco di chilometri. Beh sì, era piuttosto ambiziosa, perché ovviamente volevamo rispettare la realtà e quindi volevamo fare un racconto nei luoghi dove gli eventi ai quali ci eravamo ispirati, reali, ovviamente erano accaduti. Questo voleva dire girare negli Stati Uniti, girare in Messico, girare in Calabria, in Africa. Quindi sulla carta era piuttosto ambiziosa, al punto che all'inizio avevamo anche dei dubbi, non ci chiedevamo se poi saremmo riusciti a realizzarla sul serio, cosa che poi per fortuna è accaduta. Un lavoro di scrittura particolare che hai fatto con altre firme di peso, che hanno anche portato avanti delle indagini complesse. Beh sì, è una serie co-creata insieme a Leonardo Fasoli, con il quale avevo già collaborato in Gomorra, e Maurizio Katz, e con loro abbiamo rifatto per un paio d'anni il giro del mondo, lo stesso che raccontiamo nella serie, intervistando giornalisti, magistrati, esponenti delle forze dell'ordine, degli eserciti, e abbiamo di fatto tutta un'inchiesta giornalistica, diciamo, che era la base della documentazione per scrivere poi la serie. C'è qualcosa di particolare in questa serie che mi ha colpito? Si parla di traffico di droga, ma la droga non è quasi mai in scena. Beh, ma l'idea era proprio quella, non era di raccontare la cocaina in quanto sostanza e neanche soltanto il narcotraffico con la sua filiera, era più di raccontare quanto il fenomeno del narcotraffico e quale impatto abbia socialmente in tutti i paesi rappresentati, che praticamente sono tutti. La sfida era quella di raccontare quanto il nostro mondo, anche se non siamo personalmente coinvolti né come consumatori né come distributori, non la spacciamo, ma forse neanche l'abbiamo mai vista, però la nostra vita può essere influenzata ed è influenzata dal traffico di stupefacenti. Quindi era una sfida, diciamo così, abbastanza ambiziosa, se vuoi. C'è una differenza fondamentale, ad esempio, rispetto a quello che vediamo in Gomorra. In Gomorra vediamo criminali con l'aspetto e il tenore di vita da criminali. Qui ci sono anche criminali dalla vita pulitissima. Ci sono uomini d'affari che sembrerebbero uomini d'affari normalissimi, se non fosse per quel piccolo particolare. Esatto, era un po' quella l'idea, quella di raccontare proprio le contraddizioni e trovare come così centro del racconto dei personaggi che non fossero poi esattamente quello che ti aspetti, perché normalmente quando si parla di narcotraffico ti vengono sempre in mente le periferie dei grandi centri urbani, un certo tipo di criminalità che ruota intorno allo spaccio, quindi poiché era una cosa che già avevo raccontato con Romanzo Criminale e poi anche con Gomorra, abbiamo cercato di rappresentarlo in un modo completamente diverso. I calabresi, che sono gli acquirenti di questo gigantesco carico che parte dal Messico, e Don Minu, che è il capo dell'organizzazione, vive rintanato in un buco e non ha l'enorme guadagno che proviene dal narcotraffico, non è una cosa che gli interessa, cioè un approccio, se vuoi, nella vita estremamente calvinista, perché l'unico motore, l'unica cosa che lo interessa è l'ottenimento e il mantenimento del potere. Cinematografico ad alti altissimi livelli. Non è un caso che si sia affacciata per la prima volta questa serie alla Mostra del Cinema di Venezia qualche mese fa, un riconoscimento importante per la qualità cinematografica di 000. Beh, quello è stato un momento importantissimo, perché ovviamente trova avere l'onore di essere chiamati a presentare la serie in un contesto che è cinema elevatissimo, già di per sé era motivo d'orgoglio. Grazie a Stefano Solli, ma se vi foste persi ieri sera la prima di 000, tanto sapete che poi la trovate sull'on demand di Sky senza problemi. Io ho già visto qualche episodio e sono assolutamente una fan scatenata. Grazie Stefano e a presto. Grazie a voi. RadioTube Social Village. E continuiamo a parlare di televisione, anche se per quanto riguarda, appunto, abbiamo sentito 000, questa nuova serie di Sky, c'è un grande valore anche cinematografico. Ma quante volte sentiamo dire uno dei più grandi luoghi comuni di sempre? Vabbè, facciamocelo dire dai nostri amici di Off Topic. Allora, oggi che sì. siamo radiofonici andiamo ad attaccare la sorella, minore o maggiore? Ma sei pazzo? Ma tu vuoi ancora lavorare nella vita? Esatto, vuoi ancora lavorare? Non lo so, effettivamente è un po' suicida come scelta. E infatti il luogo comune di oggi cos'è, Riccardo? La TV è morta, la TV è morta. Insomma, chi lo dice? Cioè, lo dici tu. Allora, off topic, il nostro viaggio oltre i luoghi comuni. Fatemi baciare i ragazzi di Off Topic. Il sabato alle 10:30 di sera e la domenica alle 2 del pomeriggio. La televisione è morta, è uno dei luoghi comuni e dei preconcetti che accompagnano la TV. Ma la scorsa settimana abbiamo visto ad esempio gli ascolti di Sanremo. Insomma, mi pare che per essere morta si muove ancora molto questa TV. E proprio in questi giorni mi è arrivato l'ultimo numero di una rivista che io adoro, insomma è una rivista di quelle belle pesanti, diciamo che sono dei libri, le uscite di questa rivista molto importante che si chiama Link, idee per la televisione, e mi è piaciuta tantissimo perché contro la TV 25 miti da sfatare. Adesso non riusciamo a sfatarli tutti e 25 in una decina di minuti, ma intanto proviamo a sapere se questa TV generalista è morta oppure no. Lo chiediamo al direttore di Link, Fabio Guarnaccia. Ciao Fabio. Ciao Marta, come stai? Io bene, ma penso anche la TV, tu? Cosa dici? Ma sì, devo dire che recentemente sta dando segni di grande vitalità, non che precedentemente fosse morta, no? Però insomma si dice spesso. Si dice spesso, ci sono un sacco davvero di miti da sfatare. Intanto come vi siete divertiti a sceglierne 25? Sono tanti? Ma 25 sono tanti anche perché comunque c'era la scusa del numero 25 di Link, quindi volevamo arrivare a questa cifra. Allora così notte valeva d'argento, la fatica, no? Dai. Sì, non è stato difficile comunque, ce ne sono talmente tanti. Poi, vabbè, i più noti, al di là della morte della televisione che si porta via tutto, non so, i più facili sono stati che il futuro è negli algoritmi, che la televisione... Ah, questo degli algoritmi è bellissimo, ti fermo subito. Sì. Perché noi che guardiamo anche le piattaforme, poi noi che siamo tutti grandi fan di serie TV, e con questo noi metto me, ma metto anche tanti ascoltatori che mi mandano un sacco di messaggi. A un certo punto abbiamo paura di questo algoritmo, no? Di questi sistemi informatici enormi che come dei grandi fratelli analizzano i nostri dati e automaticamente ci sputano fuori tutti i consigli, e noi sentiamo di non avere più il dominio sulle nostre scelte. Perché è un mito da sfatare, Fabio? Ma lì è un mito da sfatare perché di fatto si comportano bene o male come hai descritto, ma sono fatti da esseri umani. Questa cosa questa quando è l'ho abbastanza letta... banale, però ricordarlo è che non è... Cioè, ho letto addirittura che c'è un manuale per gli algoritmi umani, gli algoritmatori di Netflix, non lo sapevo. Ma quelli non sono tanto gli algoritmatori, ma sono i taggatori. Spiegaci bene, Fabio, perché questa cosa... Ecco, allora. Beh, l'algoritmo per funzionare deve riconoscere i contenuti, e se una volta, come dire, ci bastavano alcune informazioni anagrafiche per dire il regista, il genere del film, eccetera, eccetera, oggi sono state create tantissime centinaia di microcategorie che possono anche, contemplare la presenza o meno di vegetazione, i colori dominanti o il tipo di storia che viene raccontato o il tipo di eroe che è messo in scena. Fate conto, appunto, centinaia di queste piccole categorie che servono per descrivere il contenuto, e dati che vengono, come dire, macinati, triturati dall'algoritmo per creare delle associazioni che permettano alla piattaforma di riconoscere i nostri gusti. Pazzesco, quindi sì, gli algoritmi sono gestiti da macchine, ma ci sono delle persone che mettono come delle specie di etichette a tantissime categorie. Pazzesco, bello. Sì, non lo fanno più soltanto Google o Netflix, ormai è moneta corrente, anche Mediaset Play ad esempio utilizza algoritmi di questo tipo. Cioè ormai non si può più fare a meno, perché i cataloghi online sono talmente ricchi che è necessario creare dei percorsi personalizzati per renderli fruibili. Allora, oggi ne parlavamo in redazione, perché poi sono temi che quando li lanci creano discussione. Enrico Pagliarini diceva che l'algoritmo con lui non ci becca mai, come invece ci becca sempre. Cioè, se una serie mi viene consigliata da una piattaforma, facilmente mi piacerà. Vuol dire che sono prevedibile? Ma guarda, non lo so, però una cosa divertente che ho letto recentemente, l'ha scritta Saverio Raimondo, che si è ritrovato su Netflix il suo speciale, no, di stand-up comedy. Lo conosci, certo, Saverio? Ma è spesso nostro ospite, gli vogliamo molto bene. Immagino. E pare che Netflix l'abbia consigliato, ma sai che poi c'è la percentuale di match col tuo profilo, sì, no? Questo sì. Contenuto match al 90% con i tuoi gusti. Pare che il suo speciale matchasse tipo per il 70-75% con i suoi gusti. Quindi non era proprio, cioè, poteva piacergli ma non era sicuro. Sì, bella questa. Ti piacerà un pochino, se non altro ti piacerà. Ma poi appunto qual è il mito dietro queste cose? Spesso i criteri editoriali della piattaforma hanno il sopravvento su questa automazione, nel senso che ognuno di noi, quando apre il suo Netflix, il suo Amazon Prime, eccetera eccetera, si trova davanti una serie di contenuti che probabilmente non c'entrano tantissimo con lui, però sono i contenuti nuovi appena rilasciati in quella settimana dalla piattaforma. Sì. Tendenzialmente poi c'è sempre più il desiderio anche di completare questi suggerimenti con una scelta editoriale vera e propria. Sì. Quindi, anche perché poi quando noi vediamo che questi sono i più visti della settimana, abbiamo la paura di essere tagliati fuori dalle discussioni, quella che adesso in rete si chiama FOMO, e allora esatto. Dici no, fammi vedere anche questo, perché sennò poi se ne parlano tutti, io non lo so, non lo conosco, anche se non è il mio genere lo guardo. Sì, è così, si creano degli stati di ansia abbastanza generalizzati. Nel numero di link Pietro Minto parla un po' anche di questa cosa, un po' anche del piacere invece di tirarsi fuori da questa corsa quotidiana all'essere costantemente aggiornati e cool, e ci racconta un po' della YOMO, che invece che non è uno yogurt, ma è la joy of missing out, quindi il piacere di fregarsene un po', di stare nel nostro tempo, nella contemporaneità a tutti i costi, e di guardare quello che ci pare. Bello, o di quando qualcuno niente. Ti dice: mai visto quest'ultima cosa? No, non l'ho vista. No. Bello. Ma infatti io sono terrorizzato che tu mi chieda qual è l'ultima serie recente che sto guardando, che ho guardato. Perché lo sto guardando moltissimo. No, io periodo. Devo dirti che io ho guardato molto, però mi sono fermata prima di Sanremo perché dovevo concentrarmi sul festival, ma adesso riprendo. Però un'altra cosa mi è piaciuta molto. Un altro dei saggi in questo numero di link, firmato da un'amica anche di RadioTube, che è Daniela Cardini. Ma insomma, sì. Il binge watching, che sembrava ormai un'abitudine consacrata, inevitabile, la maratona di serie TV, sta passando di moda? Ma no, ma infatti c'è questo un po' nelle retoriche, no? Che si portano dietro sempre tutto un mare di ideologie, e sembra che debbano prendere il sopravvento su tutto. Il binge watching è una modalità di visione, come dire, molto innovativa, nel senso che fino a qualche anno fa non era possibile, ma non soppianta il piacere invece di vedersi un episodio alla volta, anche perché se ci pensi, l'ultima vera grande serie che è stata, come dire, un fenomeno globale è Game of Thrones, che ha invece costruito negli anni una puntata per volta, una stagione all'anno, addirittura una stagione ogni due anni, questa sua fama straordinaria che ha tenuto incollato allo schermo, qualsiasi tipo di schermo, milioni di persone nel mondo. Quindi diciamo che potranno convivere i due modi di fruizione, magari anche con degli stili diversi. Cioè qualcosa sarà adatto al binge watching, alla maratona infinita, o meglio alla maratona finché non finisce una serie, e qualcosa invece sarà adatto ad avere una puntata alla settimana, come eravamo abituati un tempo. Ma senz'altro, le serie in realtà, le serie più complesse è difficile che vengano consumate così velocemente nel tempo di una serata, di una notte o di un giorno, per chi, come dire, non ha voglia di uscire di casa, anche perché richiedono un'attenzione che difficilmente riesci a dare al terzo episodio. Mentre altre cose, tendenzialmente le serie che si guardano in binge watch sono anche più contenute, hanno 7-8 episodi, allora diventano un po' come dei film lunghi, e lì c'è un altro mito, che è quello del film lungo, che nel numero di link cerchiamo un po' di analizzare e di smontare. Insomma, ci siamo divertiti a prendere tutte queste retoriche che riempiono, come dire, i discorsi di questo tipo sui nostri consumi di intrattenimento, e a smontarla, a vedere cosa c'è dietro, non per negarle, perché ormai questa è la contemporaneità nella quale viviamo, e sarebbe stupido affermare che non esistono questi fenomeni o che non sono importanti, però spesso appunto tendiamo a farci trascinare dalla disruption, dal tutto nuovo, nulla sarà come prima. A questo proposito torno al punto iniziale, la televisione generalista, almeno nei grandi eventi, mi sembra che sia ancora in ottima salute. Ma guarda, a mio parere, per quello che vedo facendo questo lavoro ormai da troppi anni, devo dire che negli ultimi tempi i grandi eventi stanno meglio che in passato. Cioè, siamo tutti così forse frammentati nei nostri consumi, nei nostri stili di vita, che vanno al di là del consumo di televisione, no? Che quando c'è qualcosa che riesce a unirci e a sincronizzare il nostro tempo con quello degli altri, cioè stiamo guardando tutti nello stesso istante il buco che lascia il palco di Sanremo, ne parleremo molto, perché l'abbiamo cavoli, visto tutti, è una cosa insostituibile, e i grandi eventi se li può permettere soltanto la televisione generalista. Soltanto la televisione generalista può creare cose che riescano ad attirare l'attenzione di tutti noi, no? C'è un pezzo di Arnaldo Greco nel numero, dove di fatto è un pezzo bello, lungo, complesso, che però si può riassumere con un fare le bolle è divertente, farle scoppiare ancora di più. Ed è così, è quello che fa la televisione generalista, prende tutte queste bolle in cui ci siamo ficcati, le fa esplodere, ci mette tutti in uno stesso spazio contemporaneamente e vediamo che succede. E vediamo che succede, grazie a Fabio Guarnaccia, direttore di Link Idee per la Televisione. L'ultimo numero è bellissimo, Contro la TV, 25 miti da sfatare, e davvero ci sono un sacco di quelle curiosità che noi che guardiamo la televisione con molto interesse, anche per cercare un po' i meccanismi che la governano, insomma queste curiosità che ci piacciono molto. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a te, saluti a tutti. Ciao. A presto a Fabio Guarnaccia, una breve pausa e poi saremo ancora insieme e parleremo ancora di musica. Radio Tube Social Village. E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi, fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco, strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti? Disinnescato. Ma dimmi come posso io, che sono una bomba orologeria, sentire fermarsi quel ticchettio. Se muore la minaccia, muore pure la magia, e non conviene mica. Allora, questo era Rosso di Rabbia, che Anastasio ha portato al Festival di Sanremo, uno dei più amati. L'abbiamo incontrato qualche giorno prima del festival perché ci ha raccontato del suo album che si intitola Atto Zero. Beh, lui è un personaggio davvero interessante e vale la pena ascoltare quello che ha da dire. Panico, panico, sto dando di matto, qualcuno mi fermi, fate presto, per favore. Tu a che punto ti senti? Perché chiamare un album Atto Zero vuol dire che è il tuo inizio. Ti dirò di più, vuol dire che non ho ancora iniziato, altrimenti sarebbe il mio Atto 1. Questo è un album di ricerca e posso dire di aver ricercato cosa io voglio fare nella musica e nella scrittura. In quest'album l'ho capito con l'ultimo pezzo, quindi è un po' come se fosse un preludio quest'album. E il titolo poi si presta a vari tipi di interpretazioni, sempre più cervellotici man mano che cresciamo, quindi non vorrei neanche tediare nessuno. Però si basa molto anche sul concetto di atto in sé, distinto dall'azione. L'atto come momento artistico, è un momento in cui abbandoni te stesso per darti in pasto a un'ispirazione o comunque... Sì, questo. Allora, ci sono tantissime riflessioni, potremmo andare avanti a parlare ore, ma la prima cosa che ti voglio chiedere è... Anagraficamente non hai nemmeno 23 anni, ma tu quanti te ne senti? Perché tante riflessioni sono quelle di un uomo che ha vissuto. Allora, anagraficamente ne ho 22, fisicamente me ne sento 60 perché sono bloccato dal mal di schiena. E mentalmente non lo so, io non mi sento vecchio mentalmente. Poi magari faccio ragionamenti spinti, ma è perché secondo me nell'arte se non c'è ricerca e se non si ci spinge sempre più in là si rimane impantanati. Simboli, arte anche figurativa, monumenti, ci sono tantissimi riferimenti culturali in questo disco, a parte il fatto che racconti che hai fatto il classico e questa cosa vabbè, ce lo spiega. È pieno, pienissimo di riferimenti. Qual è il mondo culturale che tu ami frequentare? Ma non so se ho un mondo culturale preferito. Io non sono uno studioso, perché studio significa sacrificio e tutto quello che imparo non lo imparo con sacrificio, lo imparo curiosando. E sono un curioso e vengo spesso affascinato dai pazzi, dai ribelli. In generale mi piacciono i maestri. Sono sempre affascinato dagli uomini che hanno qualcosa da insegnare, soprattutto quelli che a primo impatto sembrano pazzi. Avevi fatto crollare la Cappella Sistina, non è successo per fortuna, qui brucia Notre Dame e questo è successo. Ci sono spesso delle immagini molto forti, ci sono le armi, le esplosioni, le bombe, i terroristi. È ovvio che tutto questo sta per altro. Ma perché questa cosa è così forte? Beh, allora, nel pezzo 8-0 utilizzo la metafora di Notre Dame per parlare di quella che secondo me è, di quello che secondo me è uno stato molto raro e molto nobile dell'arte. Non posso che fare esempi provocatori per farlo capire, ma è l'unica maniera. A volte l'arte finisce per diventare feticcio, per diventare meta turistica. Cioè, ti faccio l'esempio, Notre Dame è stata eretta come simbolo divino, di Dio. È una cattedrale gotica che si alza verso il cielo, era il momento della trascendenza. Poi è diventata simbolo di una nazione e poi è diventata meta turistica. Quando brucia Notre Dame, cosa brucia? Brucia l'arte, brucia il simbolo di una nazione, brucia il simbolo di Dio. Per me brucia il legno, tanto per cominciare. E poi ognuno ci vede bruciare qualcosa. Se tu dici che ci brucia il bello, io dico, chi piange il bello che guardi meglio, è uno spettacolo. È bello anche il colpo d'occhio della cattedrale che brucia, il bello lo rifacciamo uguale. Cosa sta davvero bruciando? È una domanda aperta. Hai detto Dio, quindi io ti devo chiedere, la spiritualità permea tanti pezzi, anche se a volte il Dio è il Dio della guerra. Che rapporto hai tu con questa dimensione? Perché c'è, a volte in una parola, a volte però c'è. Beh, guarda, io sono stato, l'ho detto già in altre interviste, sono stato per tanto tempo, dai 15 fino ai 20 anni, un ateo borioso, di quelli razionalisti, meccanicisti, che insomma sono atei principalmente per ribellione e credono stupido il resto del mondo. Poi non so perché ho avuto questo cambiamento anche molto repentino e ho capito che in effetti l'uomo, io non mi definisco cristiano, non mi definisco religioso, però credo che la fede sia qualcosa di bellissimo e di alto, e soprattutto è necessario all'uomo, perché come diceva Dostoevskij, se l'uomo smette di inchinarsi davanti a Dio, inizia a inchinarsi davanti a qualche idolo, comunque qualcosa di più basso di Dio, almeno idealmente. La spiritualità per me è importante ed è molto affascinante. E ho rivisto il cristianesimo in maniera avvincente, come qualcosa di interessante da studiare. Cioè, la figura di Cristo, spesso banalizzata, spesso vituperata, spesso resa pop, in realtà è una figura molto avvincente. Il martire cristiano è una figura molto avvincente, di uno che pur di non tradirsi muore. Cristo, in non mi ricordo quale evangelo, dice: io vengo a portare la spada. Questo a dire che il cristianesimo non è neanche quella religione passiva e di remissività a cui molti pensano, è anche una religione che vuole lottare per un mondo migliore. Ecco. Lo so che citare dei versi in testi così densi sembra banalizzare, però ci sono davvero delle frasi che mi hanno toccato tantissimo. Intanto nel Sabotatore, a parte delle immagini molto crude, molto efficaci, c'è questo "lo volevate facile". Il rap è una roba tosta, non è mica il pop. Il messaggio è: la volevate facile la musica? La volevate canticchiare? Volevate qualcosa che vi svuotasse il cervello? E invece questa roba sta qui per riempirvelo, contro la vostra volontà. Sta qui per stimolarti e non per distrarti. E il rap è questo. Nel momento in cui il rap è abrasivo, lì sta facendo il suo lavoro. Poi si sta parlando tanto dei testi, io non voglio scendere nel merito. Spesso la provocazione è fine a se stessa e bisogna saper fare anche quella, questo dico. Però nessuno può legiferare in merito. Le ustioni che lasciano i riflettori, accidenti. Perché i riflettori sono una cosa bella, però ci si può bruciare. Tu che rapporto hai con il successo che ti è arrivato in un momento, con i riflettori? Beh, è chiaro che una cosa è costruirsi un successo giorno per giorno e lì ti ci puoi abituare, una cosa è ritrovarsi da un giorno all'altro con tutti i riflettori puntati addosso e con un pubblico gigante. È chiaro che ti puoi ustionare, è chiaro che puoi rimanerci un attimo attonito. E anche per questo ti devo chiedere: perché Sanremo e perché con quel pezzo? Allora, perché Sanremo? Perché sono davvero contento e onorato di poter portare un mio lavoro con un testo che io credo anche abbastanza elaborato a un pubblico mainstream. È bello arrivare al grande pubblico, che per definizione è distratto, portando un pezzo che magari ha una sonorità accattivante, ma poi come una sorta di cavallo di Troia all'interno nasconde una serie di soldati e significati. Devo chiederti ancora due cose sull'album e quindi su di te. Beh, una frase che sicuramente tutti noteranno quando parli della tua... mi fa ridere dire gioventù, che sei un bambino ancora. Era tempo di svastiche nei cessi. Questa potrebbe far discutere, insomma. Ti potranno chiedere qualcosa su questa frase? Sì, potranno, e gli risponderò come risposi con un adolescente. La svastica e anche il cazzo nel cesso non è... cioè, era fatto chiaramente per imbrattare da ragazzini di prima media che non hanno neanche idea di cosa sia quella roba. Chiaramente sono dei simboli che ci hanno ben insegnato che sono orribili, e tu li fai proprio per questo, per dare fastidio all'occhio. È sempre un po' il discorso della provocazione. Allora, a parte il vicolo del Moro che avevamo sentito a X Factor, al quale ci hai proprio stracciato l'anima, i pezzi sono spesso... forse tutti, sotto i 3 minuti. Sì. Perché sono così... sono delle fucilate? Sì, io guarda... me ne sono accorto che sono molto sintetici. Un po' perché io sono sintetico di mio. E non riuscire mai a scrivere una terza strofa. Vabbè, a parte che la terza strofa ormai nel rap non si vede più. Però io proprio non ci arrivo alla terza strofa. A volte mi capita che ho un'idea di pezzo, scrivo una strofa e dico: diamine, mi sono giocato tutto l'argomento in questa strofa. Però poi non mi viene di cambiarlo. Perché boh, cerco di essere sintetico, e questo è il punto. Beh, io a scuola ero una che faceva una colonna e mezza di foglio protocollo, deve essere una cosa del genere. Sì, ma penso che sia alla fine una qualità. Voglio solo mangiarmi il mondo. È vero? Vuoi mangiarti il mondo? Beh, lo dice lo straniero in questo caso. Anche a me piacerebbe mangiarmi il mondo, però non si commetta troppo l'errore di voler vedere me nei personaggi che mettono i testi, ecco. È la tentazione forte però, perché sono talmente profondi e ci sfidano talmente tanto che la tentazione è forte. Beh, se vogliamo tracciare un profilo psicologico di questo personaggio dello straniero, lui non è mai stato a casa sua. È una persona che ha vissuto, ha sofferto e ha trovato nel cammino, nel muoversi costantemente, la sua casa, e quindi vuole mangiarsi il mondo, perché un po' per rivalsa, un po' per averlo suo e fare di tutto il mondo la sua casa, quando tutto il mondo non lo è. Un po' complicato. È tutto un po' complicato, però molto affascinante. Sei una bella sfida, grazie. Grazie, in bocca al lupo. Evviva il lupo. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere i livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. Radio Tube Social Village. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te. E lo so, non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto in fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te. Vabbè, io la volevo cantare tutta, però ho tenuto il microfono spento. Ovviamente non potevamo non ascoltare almeno un pezzettino della canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, Fai rumore. Io con questa canzone è quanto ho rotto da quando l'ho ascoltata a metà gennaio, voi lo sapete, testimoni che ve l'ho detto subito, testimoni che ve l'ho detto subito. Allora, è normale che noi parliamo molto dell'onda lunga di Sanremo, ma questa volta vorrei parlare in questo blocco di una cosa molto interessante che è successa quest'anno in concomitanza con il Festival di Sanremo, ma che secondo me può aprire dei capitoli nuovi molto interessanti nella televisione italiana. Chissà quanti di voi l'hanno visto su RaiPlay oppure con i video che poi sono stati diffusi e condivisi moltissimo sui social. Il Festival di Sanremo è andato in onda in streaming anche in una versione molto particolare, una versione reinterpretata con il linguaggio dei segni, ma non c'era semplicemente un interprete che traduceva con i gesti, c'erano delle vere e proprie coreografie, e vorrei parlarne con chi si è occupato di questo spettacolo nello spettacolo. Lei è la titolare della 48 Dance Company, che è un laboratorio teatrale e di danza specializzato proprio in questa messa in scena del linguaggio dei segni, e ha creato queste performance pazzesche, Giovanna Rinaldi. Buongiorno Giovanna. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Giovanna. Allora, ma è stato un fenomeno, noi siamo rimasti tutti a bocca aperta perché non sapevamo che potesse esserci qualcosa del genere. Infatti, finalmente siamo riusciti in questa impresa difficilissima, perché ovviamente abbiamo tradotto in simultanea il Festival di Sanremo. E noi avevamo di pronto solo le canzoni, diciamo, in gara, dei big e le cover. Quindi tutto il resto è stato, diciamo, sul momento, o meglio un'ora forse prima della messa in onda. E noi siamo felicissimi perché finalmente Rai Pubblica Utilità ci ha permesso di fare diciamo, uno spettacolo per i sordi. Allora, e questo spettacolo anche giusto, loro, insomma, è giusto anche perché noi ci possiamo immaginare una traduzione in linguaggio dei segni, però diciamo lingua, che avrebbe ti devo correggere, lingua, lingua, tutti. Lingua, si dice lingua, sordo e si dice lingua. Questa cosa, ah, questa cosa sordo io l'ho imparata. Sì. Bene, perché questa cosa di sordo l'ho imparata e l'ho trovata così naturale e così giusta che mi è sembrata veramente una cosa. Allora adesso imparo anche lingua. Per noi udenti sembra una parola, insomma, non carina, invece si dice sordo. Certo. Allora, sì, noi ci immaginavamo, quando abbiamo saputo questa cosa, ignoranti, che fosse semplicemente, no, come quando vedi al telegiornale qualcuno che traduce. Però diciamo che se per il telegiornale è importante cogliere le notizie, la traduzione di Sanremo avrebbe avuto ben poco appeal, diciamocelo. Certo, e infatti sì, fortunatamente la canzone ha la sua poesia e è giusto anche con le mani riuscire a far arrivare questo messaggio, no? La melodia, il ritmo e soprattutto il contenuto di una canzone. Giovanna, come hai scelto i ragazzi che c'erano non sul palco, ma insomma sì, possiamo dire sul palco di questo canale alternativo e complementare? Allora, veramente sono anche io stata fortunata, nel senso ho partecipato anche io come interprete, ma nel momento del provino io ho espressamente detto che, insomma, avrei voluto fare la coreografa di questo, certo, di questo progetto, e quindi loro mi hanno selezionata come coreografa e mi sono trovata quindi già i ragazzi direttamente scelti da Rai Pubblica Utilità, che ha fatto un bando e hanno partecipato. Peccato non ci sono stati tanti partecipanti, almeno sordi, per quanto riguarda i sordi, ma spero, e comunque con il successo che abbiamo avuto, il prossimo anno si facciano avanti parecchi sordi, insomma, che hanno voglia di cantare. Sono d'accordo con te, ne sono certa, perché davvero io ti confesso, io non conoscevo questo tipo di applicazione della lingua dei segni, questa sì, possibilità di esprimersi e di davvero far sentire fantastico del telegiornale, come dicevi. Sì, certo. sì, guarda, veramente ti devo fare un sacco di complimenti. Ti seguiremo. Grazie molto, Giovanna, perché hai fatto veramente qualcosa di molto bello e io spero davvero che si possa diffondere in tanti programmi televisivi di tante reti, perché vale la pena, insomma, far vivere e far suonare, far rumore in quest'altro modo. Far rumore. Comunque ci tengo a precisare che il progetto è di Laura Santarelli. Allora, la ringraziamo tantissimo perché ha fatto davvero un'ottima, ha sì, avuto davvero un'ottima, diciamo, idea, un'ottima scelta. Abbiamo fatto un'ottima squadra e poi, insomma, abbiamo, con l'aiuto dei ragazzi che sono stati formidabili, è potuto accadere tutto questo. Grazie Giovanna Rinaldi. Grazie a voi. Complimenti. Grazie. E speriamo presto, perché vogliamo vedere e sentire ancora questo rumore insieme. Grazie Giovanna, grazie mille. Grazie, buona serata. Allora, noi facciamo una breve pausa, Giornale Radio, e poi saremo ancora insieme.